lascio ed intuitivo, disegno il mio obiettivo, ho la soluzione a questa situazione, il traffico riposa, il veleno mi consola. Le persone che si chiedono, i ragazzi che si chiedono, le sconfitte si susseguono, le ragioni che poi crollano. Thank you.